registro. Ma pure iPod? Sì, perché le foto i video. Allora voi ricorderete che l'altra volta in queste lezioni preliminari abbiamo parlato dell'interdipendenza delle arti, ne abbiamo parlato a proposito di un fatto specifico, e cioè dell'influenza della pittura, influenza decisiva e radicale della pittura nell'opera poetica di Reverdy. Abbiamo parlato di questa influenza della pittura, ricordavamo, nel secolo XIX, a proposito di Mallarmé, abbiamo parlato dell'impressionismo, no? Dell'impressionismo, abbiamo parlato dell'influenza della letteratura, dell'interdipendenza, letteratura e musica, e stavamo considerando l'altra volta, a proposito della pittura che ha influenzato Reverdy, che è il cubismo, abbiamo parlato di questo precursore del cubismo che è Cézanne. I quadri che vi avevo illustrato servivano soprattutto a farvi vedere, ve li faccio vedere un secondo ancora rapidamente, a farvi vedere alcuni concetti basilari di Cézanne che ha avuto un'importanza eccezionale. Il primo è questo, ve lo ricordate, questa specie di strada lingua, sembra una specie di lingua fuori, queste masse. Il secondo è questo ponte con queste macchie grosse, violente. Noi dobbiamo abituarci che da un certo momento in poi la pittura, verso la fine del secolo, diventa dura, diventa violenta. Pensate a Van Gogh, pensate poi tra i Fauves, pensate a Matisse, no? C'è proprio questo gusto della massa, della materia, massa della materia. Questo è un fatto che ha una sua rilevanza, direi ideologica, importante, perché l'Ottocento è stato un secolo complessivamente in cui ha prevalso una dimensione idealistica, no? E c'è stato questo culto del soggetto, dimensione idealistica, l'oggetto veniva considerato soltanto nella misura in cui fittivamente, Fichte, il grande filosofo tedesco, si contrapponeva al soggetto, ma sostanzialmente il mondo nella sua realtà, possiamo dire così, in questo secolo fondamentale, nella sua realtà concreta viene dimenticato a scapito del soggetto. Ecco, questo è il concetto base che vorrei dirvi, insomma, no? Per cui il Novecento, siccome si tratta di grandi movimenti del pensiero, il Novecento invece recupera la materia. Tutto quello che si era perduto nell'Ottocento dal punto di vista della carne e della materia viene recuperato, si tenta di recuperarlo nel Novecento. Pensate questo, per esempio, pensate come l'Ottocento naturalmente è stato prodigo di opere erotiche, no? Ma in cui la carne, chiamata in causa nelle cose erotiche, viene sentita sempre in modo intellettualistico, viene sentita come colpevole, questa carne trionfante, per così dire, questa materia trionfante. Tutto questo viene dopo, viene nel Novecento, anche se l'Ottocento lo ha preparato. La pittura mostra questa, la terza pittura che avevamo considerato l'altra volta era questa, la faccio vedere ancora un secondo. E questo, guardate questo meraviglioso quadro alle Stac, dove stava Cézanne, questo è il Golfo di Marsiglia. Vi avevo fatto notare una cosa, se non ricordo male, che la parte lontana è quasi più distinta dalla parte vicina, quindi c'è un sovvertimento delle leggi della prospettiva. La prospettiva è un qualcosa per Cézanne e per i cubisti poi sarà di diabolico, perché la prospettiva impone il soggetto sulla realtà. Io vedo le cose in questo modo, ma lui dice la prospettiva è una finzione. Se io faccio un cavallo e il cavallo lo dipingo, le due zampe stanno dietro, due stanno davanti, quelle dietro le faccio più corte per dare il senso della profondità. Ma ribatteva i Cézanne, ribattevano poi soprattutto Picasso, i cubisti, dicevano ma tutto questo è falso, perché le zampe del cavallo sono tutte e quattro uguali. In queste pitture che vi ho fatto appena vedere si nota un piccolo procedimento, già che ci siamo, dell'arte di Cézanne, che è molto interessante. E questo procedimento, lui, anzi un doppio procedimento, lui ha negato la linea del disegno a favore della forma colore. Poi vedrete che queste cose ci saranno utili, no? Cioè normalmente il disegnatore fa un il pittore fa un disegno e poi riempie la figura che viene fuori di rosso, di blu, di verde, eccetera, eccetera, no? Quindi c'è una linea e c'è il colore. Ma Cézanne dice, ma nella realtà non è così. Non ci sono le linee, attenzione, e poi il colore. C'è soltanto la forma colore. Questa è una prima considerazione. Una seconda considerazione molto interessante è che lui usa, lo chiama così, il contorno molteplice. Consiste in questo. Quando deve tracciare la famosa linea che poi si fonde con il colore, muove, fa tremare questa linea, nel senso che la rende molteplice. Non c'è più un solo filo, ma vari fili, no? In questo modo succede che l'oggetto rappresentato è visto nello spazio. Non è semplicemente disegnato sullo spazio, ma è proprio incastonato nello spazio attraverso questo contorno molteplice. Però la cosa più significativa, naturalmente, prego, rapidi, e cos'è il corso di tardi? Lei, prego, non è il corso di tardi. Dunque, però la cosa più significativa, torno, è questa questione della prospettiva. La prospettiva è un incarno. Vorrei ricordarvi quello che succedeva in un pittore, dicevamo, ve l'ho parlato già di Giotto? No. In un pittore anteriore a Piero della Francesca, che è quello che ha inventato la prospettiva. In Giotto, se voi andate a San Francesco, alla chiesa di San Francesco, per darsi, voi vedrete che c'è un ponte in primo piano. E vedete che ci sono degli uomini sul fondo, chiaro? Allora, seguendo la legge della prospettiva, gli uomini dovrebbero essere più piccoli e il ponte dovrebbe essere più grande. Invece voi vedete che in questo periodo anteriore alla prospettiva il ponte è piccolo, eppure va avanti, e gli uomini che sono dietro sono grandi. Perché questo? Perché l'uomo è grande, più importante del ponte. E quindi deve essere fatto in questo modo. Poi diciamo così, che la prospettiva sembra avere una sua verisimiglianza logica così schiacciante che ha preso piede dopo Piero della Francesca, praticamente c'è stata, con delle informazioni qua e là, c'è stata solo la prospettiva, no? Però, insomma, non è mai sfuggito questo fatto, che si trattava di una finzione mentale, che le gambe del cavallo sono tutte quante uguali. E i grandi pittori che si sono trovati ad affrontare questo problema della distanza dall'oggetto dello spettatore, a volte hanno sconvolto le regole. Se voi andate a vedere il quadro di Caravaggio, vedete che i quadri di Caravaggio presentano queste masse in primo piano, no? La massa del cavallo, per esempio, San Matteo e l'angelo, eccetera. Accanto in questa pittura di Cézanne, che influenzerà il cubismo, accanto a questa mancanza di prospettiva per arrivare a una verità superiore delle cose, verità cui arriva anche attraverso questo contorno molteplice, è chiaro tutto fin qui, eh? Accanto a questo c'è una tecnica che sarà fondamentale, viene inaugurata una tecnica che sarà fondamentale per i cubisti. Quale? Quella della pluralità dei punti di vista. Mentre, riflettiamoci un momentino, mentre la prospettiva è una fictio, perché le gambe del cavallo sono sempre tutte e quattro uguali e non puoi metterne due più piccole, no? Mentre è una fictio, la pluralità dei punti di vista non è una fictio, perché le cose sono viste diversamente a seconda che io le veda di qua, di qua, di qua, di qua. Questo concetto di pluralità dei punti di vista è anche un concetto, mi sembra, molto moderno, perché la unicità del punto di vista ha un qualcosa in sé di teologico, di metafisico, capite? Ma il mondo moderno è fatto di opinioni che si contraddicono, di punti di vista diversi, eh? Quindi sostenere la pluralità dei punti di vista in pittura è un passo avanti enorme. In una società medievale teologica c'è solo il punto di vista di Dio, oppure il punto di vista dell'autore che dipinge. Man mano che si va avanti si vede che si affatica a tenere questa unicità del punto di vista. E allora vi sono giochi eccezionali che vengono fatti, che io richiamo semplicemente, che conoscete tutti, Las Meninas di Velázquez, per esempio, no? In cui le deformazioni che vengono fatte servono proprio a far capire che, insomma, dell'unico punto di vista non ci si può accontentare. Quindi assenza di prospettiva e pluralità di punti di vista. Una terza cosa che appare in Cézanne, che apparirà nel cubismo, è una scelta di campo, diciamo così, ideologica. Io, dice Cézanne, non voglio rappresentare delle storie psicologiche, voglio rappresentare solo degli oggetti, nature morte, bicchieri, vasi, piatti, ma voglio rappresentare queste cose che sono l'immagine della realtà. Cézanne dice: non farò nulla a favore della fantasia, non ricorrerò ad alcun racconto, quello che io devo mostrare è pittura. E la pittura potrà essere, come dire, nel suo stato più puro se si applicherà a nudi oggetti. Al punto tale che Cézanne arriva a dire: non affanniamoci tanto nel rappresentare le cose, perché la realtà è semplicissima. La realtà è fatta di tre forme geometriche ricorrenti: la sfera, il cono e il cilindro. Tutto parte di lì. Tutto parte di lì. Allora dobbiamo rappresentare le cose ritrovandole nella loro natura originale di sfera, di cono e di cilindro. Questa scelta di verità, capite? Anche questa ha un valore ideologico, accanto al crollo della prospettiva, accanto all'emissione della pluralità dei punti di vista, questo terzo elemento è molto, secondo me, significativo, è molto interessante. Realtà contro fantasia, niente racconti patetici, e infatti voi non troverete in Cézanne nient'altro che, come avete visto, abbiamo visto una strada, abbiamo visto un ponte, e abbiamo visto una veduta, no? Di lago, di mare, del Golfo di Marsiglia. Dobbiamo diventare rozzi per essere veri. Lui ci riuscì molto bene a essere rozzo, al punto tale che ebbe un insuccesso clamoroso Cézanne in tutta la prima parte della sua produzione. Era troppo poco raffinato, troppo appassionato di verità per piacere ai gusti del tempo. E questo problema del piacere, questo problema del piacere, questa necessité de plaire, ce l'hanno un po' tutti gli artisti. Direi più uno va incontro alla necessità di piacere, meno è se stesso, più abbandona se stesso. Ma è impressionante vedere come grandi artisti, un po' che si abbia la mano per poterli conoscere, comprendere, insomma, si prostituiscano. A chi? A chi? Usando per esempio, al pubblico naturalmente, a chi? A chi? Usando mezzi facili. Nei film questa prostituzione di grandi registi è un fatto continuo. È difficile vedere qualcuno, e sono i più grandi, che stanno soli con se stessi. Perché poi, sapete, stare solo per un artista, stare solo con se stesso, ha un senso se tu sai chi è questo se stesso, questo te stesso. Ma se non sai chi è, avevo un allievo, che è diventato uno scrittore tanti anni fa, famoso, un commediografo, e mi frequentava, aveva pochi anni meno di me, aveva pubblicato tanti testi teatrali, e qui in Italia molti, tradotti in varie parti del mondo. C'era qualcosa che non mi convinceva. Era una prostituta. Ora, nella vita, diciamo, privata, insomma, anche se non sono di mio gradimento, insomma, le prostitute vanno benissimo per assolvere certe esigenze, ma nell'arte no, nell'arte no. Un giorno glielo dissi, e direi che, glielo dissi in modo come so dire io, e non ci frequentavo più. Lui mi aveva dedicato nel senso che purtroppo era stampato, erano stampate le mie parole sui suoi testi, questo un po' mi seccava. Lui prendeva degli spunti dalla realtà e poi li svolgeva, questi spunti, alla cronaca, li svolgeva andando incontro alle esigenze più pruriginose o più facili del pubblico. Io dissi, Non si può fare un prodotto artistico nel segno della prostituzione. Questo è un grande problema. Non si può. Se uno non riesce a trovare quel se stesso che deve mettere nell'opera d'arte, stia fermo, faccia altre cose, faccia l'ingegnere, l'architetto, si dedichi all'ippica, ma non faccia un prodotto artistico. Non faccia un prodotto artistico. Il prodotto artistico ha questa legge morale all'interno, che è una legge che dice che il prodotto artistico si basa sull'artificio, quindi non può essere ingenuo in nessun caso, ma deve presentare, come diceva Proust, una patria, la patria dell'autore, una patria perduta, deve presentare una verità umana. Se non c'è questa verità umana, l'opera crolla. L'opera crolla. Nel suo bisogno di realtà e di verità, Cézanne aveva ottenuto un gran fatto. Aveva ottenuto di poter passare dal voir al concevoir, dal vedere al concepire. Non era più di scena il vedere, come per gli impressionisti, vedere qualcosa e quindi riportarlo sulla tela esattamente come l'avevi visti, il prato, ricordate, impressionistico, il prato che diventa giallo perché c'è il sole sopra. No, la pittura deve darti delle cose che tu possa pensare. Allora tu non pensi un prato giallo, capite? Tu il prato lo pensi verde. Quest'idea che la pittura dovesse rappresentare delle cose che si possono pensare, che si possono, nel modo in cui sono pensate, questa è la strada del cubismo. È come se i cubisti dicessero: siamo stanchi di vedere, vogliamo, cioè siamo stanchi di transitorietà. Vogliamo poter dipingere cose che pensiamo, vogliamo poter dipingere cose che pensiamo, cose che non siano corrotte dalle luci, dai cambiamenti di luce, dall'insorgere della notte. Questa esigenza di verità contrasta moltissimo contro invece questa orgia di visualità che c'è invece nell'impressionismo. Un'orgia di visualità e una mancanza di verità, in fondo, mi pare che lo accennavo già, in fondo risponde a un'ideologia precisa, quella che c'era dietro la maggior parte degli impressionisti, un'ideologia borghese. Quali sono i soggetti trattati dagli impressionisti? Ci sono delle famigliuole che sono a fare i loro déjeuner sur l'herbe. Ci sono delle coppiette, vi sono delle feste e dei balli pubblici, no? Vi sono naturalmente dei paesaggi che vengono come redenti nei loro colori originari, redenti dalla luce che piomba su di essi. Ci sono tutte queste cose bellissime, ma queste cose bellissime ci tranquillizzano. Vi dicevo, queste piccole cose, notate, se voi andate a vedere una mostra barocca di Carracci, andate a vedere qualcosa, andate a vedere Bernini, Borromini, voi non avete un senso di pace guardando il barocco, non avete un senso di pace. Se voi andate vicino alla stazione a vedere la bellissima chiesa che sta a piazza all'arco Santa Susanna, andate a vedere il Bernini, la Santa Teresa, in quest'opera meravigliosa in cui architettura, perché c'è proprio una costruzione architettonica, letteratura, pittura, sembrano fondersi, no? Avete un senso di angoscia, una donna come in uno stato orgasmico sta facendo l'amore con Dio. I quadri barocchi inquietano, i quadri impressionisti no. I quadri impressionisti, si va per dire naturalmente con tutto il rispetto possibile, sono come, rispetto a chi beve vino forte, sono Coca-Cola, light. I quadri impressionisti hanno folle di persone intorno e sono un'arte facile. Ma perché un'arte facile? È un'arte facile perché ci tranquillizza. Noi cerchiamo, noi esseri umani, cerchiamo la conservazione, non l'innovazione. Noi vogliamo costruirci, come un po' le tartarughe, vogliamo costruirci delle case addosso, capite? Allora vedendo delle immagini così suadenti, famiglie unite, coppiette che si amano, io ho in casa una riproduzione di Renoir con due belle ragazze che mi piacevano per le loro forme cospicue, a dire la verità. Quindi molti anni fa ho preso questa bellissima riproduzione, perché insomma avevano dei fianchi che erano di una splendida giovanile opulenza, e direi che l'ho tenuto per molti anni. Poi ho fatto girare un po' questo qua, questa riproduzione bellissima in casa, perché mi ero un po' annoiato, quindi è passata dallo studio alla camera da letto, eccetera, per cui mi sveglio vedendo queste cosce, insomma, ed è un bel vedere, però c'è qualcosa ancora che mi affatica, mi affatica. Starei per dire l'arte meravigliosa, naturalmente, che esprimono, mi affatica, come dire, l'ovvietà. L'ovvietà affatica, capite? L'ovvietà affatica. È come, se posso andare un po' nelle mie immagini, è come un po', spero che mi seguiate, come un po' con la Nutella, insomma. Se tu mangi troppa Nutella, a parte gli effetti disastrosi naturalmente da un punto di vista dietetico, ma troppo miele, troppo zucchero, troppa quiete, uno ha bisogno di altro, no? Ci sono delle relazioni umane che sono tutte quante come queste ragazze di Renoir, insomma, ti tranquillizzano, ma sì, ma poi che cosa ti danno? Che cosa ti danno? Il limite ideologico dell'impressionismo era molto avvertito. Quando vennero fuori i cubisti, avvertivano proprio questa mancanza che c'era. Si tratta di vedere, questa è una cosa molto importante, ricordate, segnatevelo con una crocettina particolare, se, come è stato detto, Cézanne privilegiava i volumi oppure gli spazi. Chi dice l'uno, chi dice l'altro. Ma voi dite tutti e due, nel senso che in realtà capite, guardiamo quel quadro che avevamo visto, tanto per intenderci, C103, che vi pare tra i più significativi, quello che abbiamo appena visto. Guardate qua, cosa potete dire qua? Privilegiato il volume o spazio? Beh, ammazza, il volume privilegiato, senza dubbio, lo vedete, questa strada linguona, sembra una lingua oscena che esce fuori, lo vedete questo, no? Lo vedete. Però guardate come lo spazio non c'è più, vedete come è tutto schiacciato perché occupato dalla materia. Quindi direi che Cézanne privilegia le une e le altre cose. Ma soprattutto direi questo, che quello che rappresenta Cézanne è, per così dire, mi viene in mente questa espressione, uno stato d'animo della materia. L'espressione un po' stravagante, non vi stupisca. Cioè, la solitudine della materia. Questi oggetti, vasi di coccio, piatti, mele, frutta, corpi, sono corpi, sono solitari. E la bellezza di questa intuizione è che noi siamo fra solitudini, secondo me, no? Il nostro corpo è solitario. Chi si occupa del nostro corpo? Se qualcuno si occupasse del suo corpo, la cosa che scoccerebbe, non dire che sarebbe minorato. Se qualcuno, per esempio, prendesse l'abitudine di dirle, io il suo nome non sono dimenticato, non lo ricordo, la reina ricordata bene, il nome è Roberto, gli dicessi: senti Roberto, dopo in poi io mi occuperò della tua igiene dentaria e quindi dopo ogni pranzo ti laverò i denti. Lei come sentirebbe una cosa? Ma perché? Questa è la legge. E questa è la legge, è caduto il governo, è venuto al potere Berlusconi, ma è particolarmente matto, eccetera, eccetera, e vuole per esempio che ci si occupi della sua igiene d'Italia. Lei naturalmente lo sentirebbe un atto di prevaricazione spaventosa, insomma, no? è lei che si occupa di se stesso, ma lei non avverte il suo corpo come solitario, chi si occupa delle sue gambe? Lei si taglia le unghie, lo spero. Ma tutta questa gestione non la fa sentire come abbandonato a se stesso. Noi nell'atto, diciamo così, nel contatto umano amoroso, è forse l'unico in cui in parte, solo in parte, riusciamo a coinvolgere un altro essere umano nella gestione del nostro corpo, no? Ma tutto è solo, non solo il nostro corpo, tutto è solo. Com'è possibile che non vi rendiate conto quanto è solitario questo tavolo? Noi siamo entrati in questa stanza, pensate a questo tavolo com'era solo, mi seguite bene in questo discorso? Era solo, e le seggiole poverette? Quando avremo chiuso la luce, avremo lasciato la loro solitudine queste seggiole, questi arredi. Tutto è solo. E tutto nella propria solitudine, oggetti e persone, allo stesso modo. Oggetti e persone, matura, per così dire, una sua verità. La verità non è la fusione. La verità è sempre una condizione, è sempre la solitudine. La solitudine di una penna, di un paio di occhiali sul tavolo, di un corpo che va da se stesso. Questo concetto sottile vorrei che proprio lo prendeste, perché una delle caratteristiche della poesia di Verdino, lo vedremo tra poco, è proprio questa. In una situazione pittorica è proprio questa grande solitudine delle cose. Vedremo tra poco che, per esempio, nella poesia di Reverdy ci sono delle porte, molte porte, molte finestre. E voi avete una sensazione strana vedendo queste scale, finestre, porte, pareti. Chi parlerà? Chi ha mai amato questa parete? Questa parete chi l'ha amata? Nessuno l'ha amata. Ci pensate? Ci pensate? Cioè questa travolgente solitudine di una presa elettrica. Naturalmente uno può dire una presa elettrica non ha un'anima, e quindi una presa elettrica non sa quante sono. Sì, però, insomma, si può ipotizzare che tutto ciò che è solo, solo obiettivamente faccia sentire la solitudine. Noi ci sono delle case in cui lo sentiamo, lo percepiamo, nei mobili, negli arredi, questo senso di solitudine. Allora, veniamo adesso a considerare questo passaggio all'arte successiva, l'impressionismo, Cézanne, una parentesi che ha dato degli ottimi, splendidi risultati, che è quella dei Fauves, Matisse Derain Blamenc, tappeti in primo piano, coperte in primo piano, grossi colori in primo piano. E però l'arte più interessante è un'arte straordinariamente povera e che vediamo agli inizi del secolo, nei primi anni del secolo. È un'arte negra. Oggi la parola negro non può più essere usata, se non con... ma così veniva. Allora si diceva, cioè, fino a pochi, a qualche decennio fa in Italia, uno poteva dire negro, non era assolutamente un insulto, oggi non si può più. Arte negra, o arte africana. Per la verità non è solo arte africana, è anche arte dell'Oceania, dei paesi dell'Oceania. E quest'arte produsse con degli oggetti che si trovavano al Musée de Londra, per la verità a Parigi, e poi con un'esposizione che venne fatta nei primi anni del secolo di oggetti di arte africana, produsse nei pittori, più negli artisti più geniali, produsse discussioni di questo genere. Qui c'è una piccola riproduzione, non avete nessuna difficoltà a conoscere questo tipo di arte, io purtroppo non ho avuto il mezzo io. Questo è un libro bellissimo sul cubismo, ma in questa arte africana adesso io passo, ve la faccio vedere, avete visto mille volte mascheroni di questo genere, lo vedete? Lo vedete. E allora c'erano Vlamenche e Deren che stavano parlando di queste cose qui, di queste statuette, e uno di loro disse ma questo non è bello come la Venere di Milo, eh? E lo chiesero a un signore che passava lì, e questo signore si chiamava Pablo Picasso, e gli dissero: ma questo non è bello, questi mascheroni, come la Venere di Milo? E Picasso risponde: no, sono più belli della Venere di Milo. E non era una frase provocatoria, perché Picasso, che diciamo ce l'aveva a morte con gli impressionisti perché avevano negato la realtà in nome di un'ideologia borghese, perché avevano dissolto le cose nella luce, ma poi della verità delle cose, che cosa era rimasta, trasse dall'arte africana uno stimolo fondamentale per inventarsi questo movimento, questa nuova arte, lui e Braque, di cui abbiamo parlato, che è il cubismo. Non sapete probabilmente, ma è utile ricordarlo, se lo sapete tanto meglio, la parola cubismo da dove viene fuori. No, c'era una esposizione di quadri di Braque. Uno dei quadri di Braque era l'Estaque, è quel posto che abbiamo visto. E allora Matisse, che è uno dei Fauve, i Fauve sono quei pittori dell'inizio del secolo che si chiamavano Fauve, cioè bestie feroci, perché in una mostra loro a un certo punto c'era una scultura convenzionale e allora un critico, guardando questa scultura convenzionale in mezzo ai quadri dei Fauve, disse: sembra Donatello, cioè Donatello l'emblema della classicità, sembra Donatello in mezzo a delle bestie feroci. E allora venne fuori questo soprannome Fauve, no? Soprannome abbastanza svalutante. Va bene. Allora, che cosa successe in questa esposizione? Era il Salon d'Automne, e lì c'era questa esposizione di quadri di Braque, e c'era soprattutto questo quadro, l'Estaque, e a un certo momento un critico, e qualcuno, Matisse probabilmente, vi stavo dicendo, Matisse disse: questo paesaggio sembra fatto di piccoli cubi, così disse. L'espressione venne raccolta in una recensione che venne fatta subito, siamo nel 1908, venne raccolta dal critico Louis Vaucelles, ricordate queste cose, Vaucelles, il quale divenne questo termine. Fatto avec de petits cubes, e divenne famoso, e così nacque il cubismo. Ecco, mette insieme un mercante d'arte straordinario come Kahnweiler e Braque, Picasso, e poi dopo si è aggiunto anche Leger soprattutto, e viene fuori l'arte cubistica. Che cosa vuol dire il cubismo? Il cubismo aveva assimilato questo studio per l'ideologia borghese che aveva mascherato la verità e aveva assimilato la lezione di Cézanne. Guardate che gli impressionisti erano tanti, Manet, Monet, Diderot, Sigi, eccetera eccetera, o Renoir, ma il più nuovo fra di loro fu uno che poi si allontanò da loro, che era per l'appunto Cézanne. Questo bisogno di verità, impronta di sé il cubismo, il quale si divide, imparate queste piccole cose, in due momenti. c'è un cubismo analitico, e il cubismo analitico, analisi viene dal greco, come sapete, analyo, cioè sciogliere. Il cubismo analitico consiste in questo, che un oggetto tu lo vedi tagliato in piani geometrici, tagliato a fette in piani geometrici. E quindi è come se facessi una sorta di ecco, mi viene in mente questo paragone, che mi pare assolutamente funzionale. È come se tu facessi a un oggetto, facessi la TAC. Sapete che cos'è la TAC? Spero che non diate il modale. Ecco. Cioè la radiografia cosa fa? Tu fai la radiografia di un organo, adesso lo stomaco, tu vedi lo stomaco. La TAC è come se lo vedessi a fette, come se lo vedessi a fette. E loro procedevano in questo modo, con questi tagli geometrici, con questi tagli geometrici. Sarebbe bene vedere, insomma, vi faccio vedere solo il quadro del cubismo analitico, il primo, il famoso che tutti conoscete, quindi senza che dobbiate fare sforzi soverchi. Ecco, guardate per esempio, e che è quello delle Demoiselles d'Avignon, sempre che lo, ecco, guardatele qua, guardate le famose prostitute di Avignone, le Demoiselles d'Avignon, quelle che hanno il seno sulla schiena, ecco, guardate come sono, per caso, ma lo conoscete veramente bene questo quadro, vedete come sono tagliati, e c'è una sorta di ambizione, sapete cosa viene in mente? C'è una sorta di ambizione chirurgica nel tagliare gli oggetti, nel tagliare le persone. Questo è il cubismo analitico. Altri esempi di cubismo analitico, abbiamo queste prime cose, per esempio, no? Ecco, guardate un quadro come questo, il Château à la Roche-Guyon Estate, ecco, voi vedete come ci sono dei blocchi e dei tagli. In questa costruzione, per la verità, voi riconoscete ancora gli oggetti originali, le facce, un occhio, si riconoscono queste cose. Situazione assai diversa si crea a partire dal 13 più o meno, dal 12-13, con il cubismo sintetico, in che cosa consiste il cubismo sintetico? Nel prendere di un oggetto che vogliamo raffigurare alcuni dettagli, e questi dettagli vengono messi insieme secondo un ordine che non è assolutamente quello della realtà, vengono messi insieme creando un assemblaggio, creando un processo di sintesi dell'oggetto che si vuole per l'appunto indicare, o del cubismo sintetico, occorre ricordare, vennero inventati i papier collé, cioè erano carte da gioco, pezzi di giornale che venivano appiccicati sul quadro per costruire una sorta di rilievo al quadro, no? Quello che colpisce, vedete, in questa ricerca dell'arte moderna è un frenetico bisogno di verità. Allora si vuole che lo spazio artistico divenga più ricco, per esempio, e allora si mettono queste cose appiccicate sopra. Aggiungerò una cosa, che in questo gusto di nudità e di verità confluiscono dei pittori, i cosiddetti pittori della domenica, cioè pittori che fanno un lavoro ma la domenica possono dedicarsi al loro hobby, che sono pittori senza arte, senza particolare fine. Però hanno un merito. in questa loro rozzezza, in questo loro primitivismo, hanno il merito di rappresentare le cose per come sono. Vedete che l'ossessione è sempre questa, no? Fra questi pittori della domenica ce n'era uno che, per il discorso che stiamo facendo, ha una grande importanza. C'è una mostra in questo momento, ma questa porta si muove. E c'è una mostra in questo momento qui a Roma che vi consiglierei di vedere. Io non ho ancora potuto vederla, ma vale molto la pena. E questo pittore era Gauguin. Gauguin era un pittore della domenica, per l'appunto, che dopo varie peregrinazioni in Bretagna, eccetera, andò a finire, come tutti sapete, perché è un personaggio mitico, andò a finire nelle isole Marchesi, a Tahiti. Ecco, ci andò a finire, per la verità, con una mentalità colonialistica, insomma, era una sorta di Eden che l'uomo corrotto europeo scopriva e in cui voleva addormentarsi e morire, e lì ci morì, detto per il cielo, quindi il suo desiderio fu realizzato. Com'erano le pitture di Gauguin? Erano pitture che rappresentavano quello stesso gusto di verità che era stato di Cézanne, che è dell'arte africana e che era del Fauve e che era del cubismo. Come lo rappresentavano? Erano grosse figure, grosse donne, no? Che nella loro grossezza potevano avere qualcosa di mitologico, ed erano grosse donne nude. Sulla spiaggia, in un clima di abbandono. Ma anche qui però, vedete, riflettendoci un poco, questo abbandono di queste figure gauguiniane, più che edonistico, è l'abbandono di chi vuole lasciare la civiltà alla Rousseau. Di chi vuole lasciare la civiltà e ritrovare una sua verità. In fondo, noi qui siamo vestiti secondo civiltà. Il mio abbigliamento non la colpisce più di tanto. Lei sa che cos'è questo oggetto qui, no? Saprebbe chiamarlo subito. Sa che cos'è? Come lo chiama? Questo sa che cos'è, no? Poi i pantaloni, la esimo dal trattenere sull'under clothes, eccetera, eccetera, però insomma anch'io nel mio piccolo ho la biancheria. Ma quando io sono in libertà in casa, no? Se io devo vedere una partita, adesso odio il calcio, ma no, devo vedere una partita non tossica. Se io devo scrivere in casa, non sto con le scarpe. Assolutamente. Uno si mette comodo in casa. C'è qualcuno di voi che non si mette comodo? Lei si mette comodo in casa, eh? Magari ci saranno dei giorni in cui non si trucca. Ci saranno dei giorni. E che cosa succede in un giorno in cui uno non si trucca, o il ragazzo non si mette, che ne so, il trucco, il rossetto, sta in vestaglia? Lei è mai stata in vestaglia? No? E non ha le vestaglie. Pigiama? Però lei avverte però una stranezza se venisse qui all'università in pigiama. Se lei vedesse il professor Guaraldo che viene in pigiama, quale sarebbe? Vedi però come questo riso è esorcizzante la stranezza. Cioè, se io entrassi qui, in uno splendido pigiama nero damascato, questo veramente potrebbe avere un'alta valenza, si fa per dire sexy, insomma, certamente non sarebbe apprezzato dall'istituzione. Allora vedete come Gauguin in che direzione si muove, la direzione del lasciarsi andare, del piacere, ma il piacere come luogo di verità profonda, come luogo di verità profonda. Ci sono dei rumori che noi non facciamo in pubblico, adesso io non parlo. Ma se lei prende un po' di Coca-Cola così, a caso cosa può succedere? Cioè, per dire, uno come Roberta, no? Però capisce, però noi abbiamo, quando dormiamo? Non siamo soli con noi stessi, con questa abbandonata materia del nostro corpo e questa verità. Allora, se noi adesso andiamo un momentino indietro e vediamo dopo la composta pittura impressionistica, a vedere quello che è capitato che c'era Cézanne, abbiamo visto molte cose interessanti di Cézanne, abbiamo visto qualcosa dei Fauve, i tappeti rossi, sono cose che voi conoscete, non mi sono neanche premurato di portarvi delle riproduzioni, l'arte africana, il cubismo, prima ancora Gauguin, no? A questo punto noi vediamo che questo inizio del secolo ha questo problema forte della verità, ma non solo. Se andiamo al cubismo c'è anche un altro problema: hai bisogno di concettualizzare la verità, cioè hai bisogno, proseguendo le parole di Cézanne, di concevoir e non di guarda. Se una cosa è nella mia mente, non ci sarà più gioco di luce che possa cancellare, sarà lì per sempre. Questo è molto interessante in altri ambiti. Ci sono delle persone magari a cui noi siamo legati, in senso amoroso, ma è un'idea che mi sta venendo in questo momento, ma sono più negli occhi che abbiamo, nei nostri occhi, queste persone, che la vita. E come ce ne rendiamo conto? Ce ne rendiamo conto perché, per esempio, le rotture sentimentali in questi casi è un'idea un po' stravagante, ma vi ho detto molto di peggio. Le rotture sentimentali non ci procurano poi soverchio danno e dolore. Sono, capite cosa voglio dire, sono persone amate negli occhi, ma non nella testa, persone non concepite. Quello che diventa dolorosissimo è quando tu hai concepito qualcuno, anche se una persona che ha un genitore, no? Ci sono dei genitori, è bellissima questa idea, è un'idea bellissima. Sono dei parenti, dei genitori che per disattenzione loro, nostra, sono rimasti solo negli occhi. Sto parlando in modo letterario, metaforico e paradossale. Non sono arrivati nella mente. E va l'opposto. Ci sono delle persone che non abbiamo avuto il coraggio di guardare e sono passate direttamente nella mente. Sono nel nostro cervello. Direi che le abbiamo guardate con pudore, con timidezza, con vergogna, e quindi le abbiamo dentro la testa, non si toglieranno più. Quello che è concepito, stando a quello che diceva Cézanne, non si toglie più. Quello che è concepito. Il cubismo vuole essere un'arte mentale, vuole che quello che rappresenta rimanga nella testa. Vi ricordate che Cézanne aveva detto no ai racconti? Voleva rappresentare semplicemente degli oggetti nella loro nudità. Vi ricordate questo? Voleva rappresentare un corpo nella sua massività. Inventato questa parola, la massa, e poi e questa è la stessa cosa che fanno i cubisti dicono no al racconto, continueranno a rappresentare implacabili figure viste come oggetti, vasi, fiori, nature morte. E questo perché? Perché il racconto, secondo i cubisti, svia l'attenzione dalla pittura. L'altra cosa che viene da Cézanne al cubismo è la pluralità dei punti di vista. Anzi, direi in modo molto più accentuato. Quindi tutto diventa mentale nei buddhisti, tutto diventa mentale e quindi eterno e quindi permanente. Poi c'è una pluralità dei punti di vista che è qualcosa di duro, di aspro, di reale. Non c'è più un soggetto, è possibile vedere la stessa cosa da punti di vista differenti. Poi non c'è più il racconto. E adesso vediamo un poco, rispondiamo a questo quesito. Reverdì, in che senso è buddista? Paul Reverdì è un poeta che nasce nel sud della Francia e che ha nella sua... era figlio di una famiglia di scultori di legno. Vi prego di notare quanto è interessante questo dettaglio, perché il gusto del concreto, della scultura, gli viene proprio dalla famiglia, dell'oggetto, gli viene dalla famiglia. Ebbe un grave trauma nella vita, Reverdì, che la loro casa di famiglia dovettero venderla per motivi economici. Quindi lui si ritrovò, lui era un personaggio assolutamente solitario, si ritrovò senza il guscio. A Parigi ebbe una grande fortuna, andò a vivere a Parigi, una grande fortuna di incontrare gente come Picasso. Ma si mantenne però sempre, nonostante frequentasse questi artisti, Apollinaire, Picasso, eccetera, si mantenne però sempre in una posizione abbastanza distaccata. In questa solitudine, Reverdì, in questa solitudine, a un certo momento arrivò a una conversione religiosa e fu radicale questa conversione, al punto che andò a vivere in un monastero. Però, questo rende particolarmente fascinoso il caso Reverdì, quest'uomo che era andato a vivere, era restato in un monastero, a un certo momento perde la fede e quindi il resto della sua vita è stato come dilaniato da questa sua ricerca di una fede che non era più, di una fede perduta. In che senso Reverdì era cubista? Lui negava di essere un cubista. E negava di essere un cubista sulla base di questa semplicissima formulazione. Diceva: ogni arte ha un suo statuto, il cubismo è un fatto che riguarda la pittura, non la poesia. Quindi è sbagliato dire che io sono un cubista. In realtà ha dei forti punti di contatto con il cubismo e al tempo stesso ha delle differenze. Fermiamoci, io proporrei di andare avanti, se non ci interrompono, fino all'1:15, vi va? Così recuperiamo un pochino, ci fermiamo 5-10 minuti.